corpo è la somma di tutti i desideri. La tua testa è il racconto di ciò che sei e di quel che eri. La complicità, ma il silenzio, e in questo noi due siamo bravi, profeti e discepoli di verità e di segreti. E non è mica la fine se mai dovessimo sbagliare, e perché le circostanze fanno la differenza, capovolgo la distanza che si azzera, e siamo, noi siamo infinito. La mia pelle è corteccia che si può anche scalfire. La tua giacca si impiglia ad un ramo e mi potrò scaldare. Io ti devo tante cose, la differenza tra luce ed ombre, tra il coraggio e l'istinto e la paura di non fallire. Mica la fine se mai dovessimo sbagliare, e perché le circostanze fanno la differenza, capovolgo la distanza che si azzera, e siamo, noi siamo infinito. Dovessimo fallire, e perché capovolgo la distanza che si azzera, e ora e sempre siamo, noi siamo infinito. Noi siamo infinito.